prova a star con me. Un altro inverno a Pordenone. Sarà un letargo dolce senza inverno e freddo. Sarà che sempre troppo. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno una ragazza uguale, identica a me. Dice che qui non resta, che non lo fermerà. La sola